Il caffè della domenica di Maria Latella. In collaborazione con Lavazza. Il caffè ci unisce. Eccoci di ritorno al caffè della domenica e questa volta il caffè lo prendiamo con un 34enne, uno che ha inventato la società di cui vi parleremo tra poco insieme ad altri due coetanei quando tutti e tre avevano 30 anni. Gli altri due soci sono Riccardo Pozzoli, che voi ascoltatori di Radio 24 conoscete bene perché è stato spesso ospite anche Nessuno è Perfetta, l'altro è Marco Mottolese. E di che cosa parliamo al caffè della domenica e perché parliamo con Stefano Cavaleri, che è il nostro ospite del caffè di quest'oggi? Parliamo di una società Furban che ha qualcosa a che vedere con questo anno particolare. Vi spiegheremo e capiremo insieme perché. Intanto, buona domenica e buon caffè, Stefano. Grazie, grazie mille per l'invito e buona domenica a tutti. Ecco perché Furban ci ha incuriosito, perché in questo anno in cui non si è andati al lavoro come si faceva tradizionalmente, o in cui molti hanno riscoperto o scoperto per la prima volta il lavoro da casa, una società come la vostra, un'azienda come Furban, che è un ristorante digitale, ci ha incuriosito. Che cos'è? Com'è nata e quando vi è venuta questa idea? Furban oggi è la pausa pranzo smart che dà una soluzione al pranzo alle aziende. L'azienda nasce in realtà 5 anni fa e il servizio è nei confronti del cliente finale, quindi come hai appena detto è un ristorante digitale, è un ristorante che non ha posti a sedere, ma la consegna del pasto arriva direttamente in ufficio o a casa. Quindi inizia come un servizio dedicato alla pausa pranzo e successivamente, da ormai quasi 3 anni, dato che durante la pausa pranzo la maggior parte delle persone è in azienda, iniziamo a lavorare direttamente con le aziende e a offrire una serie di soluzioni alle aziende per appunto rendere la pausa pranzo un momento piacevole e soprattutto far consumare ai propri dipendenti un pasto sano e bilanciato. Da qui quindi nascono due tipologie di servizio, uno che è una sorta di store più innovativo rispetto alla classica mensa, che occupa molto meno spazio e permette all'azienda di fornire un servizio ai propri dipendenti, appunto una pausa pranzo sana senza occupare spazi per cucina eccetera, perché la nostra cucina è centralizzata e questo per aziende con più di 500 dipendenti, oppure un'altra soluzione che in questo momento sta crescendo moltissimo è quella del Furban Fridge, che è uno smart fridge che si può sbloccare tramite app e tramite cui si può acquistare il proprio pranzo, quindi in un metro quadro riusciamo a risolvere il problema della pausa pranzo. Volevo capire, per quanto riguarda le aziende, anche quelle con centinaia di dipendenti, cosa fate? Preparate i pasti in una vostra cucina e poi li trasferite o fate riferimento ad altre aziende che li preparano per voi? Produciamo una parte tramite le nostre cucine e una parte di prodotti abbiamo partner che producono appunto i prodotti con quella che è la nostra filosofia. Diciamo che la nostra forza in questo contesto è la parte di creazione, ricerca e sviluppo, quindi tutte le ricette sono proprietarie di Furban e alcune vengono effettuate da Furban stessa, altre vengono preparate da alcuni partner con cui lavoriamo da anni. Senta, ma se io sono un lavoratore da remoto, la mia azienda mi fa recapitare il pasto a casa come faceva prima dandomi i buoni pasto, oppure dice no, sei a casa, ti fai da mangiare da solo? Certo, infatti noi essendo nati come delivery riusciamo a arrivare anche a casa del dipendente o del nostro cliente, quindi sì, alcune aziende decidono di far recapitare il pranzo direttamente a casa dei dipendenti o è lo stesso dipendente che ordina il pranzo da casa invece che dall'ufficio. E che cosa si può avere per esempio per pranzo? Una dipendente di una grande azienda che voglia stare leggera ma che non è vegana, qual è uno dei vostri menù? Allora, i nostri menù sono composti da una dozzina di piatti, quello che è sempre stato un nostro piatto iconico è il piatto unico. Quindi è un piatto che è a livello nutrizionale bilanciato e contiene tutti i nutrienti per un buon pranzo. Quindi un esempio di questo piatto è un filetto di salmone con verdure e riso basmati, che è uno dei nostri piatti più venduti, oppure un pollo al curry con verdure saltate e anche in questo caso un riso, magari un riso rosso, oppure un polpo scottato alla griglia sempre con verdure saltate, oppure un poké, quindi un classico poké che, come sa, vanno molto di moda oggi, quindi anche qui riso basmati, verdure e salmone crudo sopra, e tutta questa tipologia di piatti, diciamo un piatto che ti riempie, fa bene per il tuo corpo e non ti fa addormentare. Allora, dicevo che l'idea è nata quando avevate 30 anni, siete partiti 5 anni fa. Con quali fondi vi hanno aiutato le famiglie? Chi vi ha finanziato? Allora, l'idea di creare questa società, come spesso capita, è avvenuta per un bisogno personale, dove nell'azienda dove lavoravo c'era la mensa e intorno non c'era nient'altro. Quindi questa necessità di voler mangiare sano, senza appesantirmi, era qualcosa che, parlando con tanti altri colleghi, era un bisogno, diciamo, che era forte nelle persone. E quindi da lì, diciamo, io che ho avuto un'esperienza più nel mondo digitale, mi sono unito con Marco e Riccardo. Marco, che invece ha una grande esperienza nel mondo food, quindi nel catering dei grandi eventi, ha seguito, diciamo, la Formula 1 in giro per il mondo per anni, quindi si è specializzato nel cibo di alta qualità. Da lì l'unione delle competenze con Marco e Riccardo ha fatto nascere Furban. E Furban, quindi, come qualsiasi idea, è nato da delle slide, poi da un packaging, poi si è sviluppata e presentata ad una serie di investitori privati, quindi non le nostre famiglie direttamente, ma investitori privati che hanno creduto in noi e nel progetto che abbiamo presentato. Quindi questi investitori ci hanno dato una prima parte di finanziamenti e negli anni ci hanno seguito credendo nel progetto e in Furban. E devo dire, ci hanno seguito anche quest'anno, che è stato un anno particolare. Senta, che cosa avete capito dell'esperienza di questi mesi, di come è cambiato il modo di consumare il pranzo durante la pausa? Prima si andava al bar sotto l'azienda o al piccolo ristorante vicino? Allora, questa esperienza di questi mesi è stata molto formativa, perché da un lato ha accelerato tantissimo quella che è la nostra visione, cioè il fatto che non può esistere più una mensa con la solita offerta, ma soprattutto con che conta i 300-400 persone presenti nel building, ma tutto diventa più flessibile. Quindi l'azienda vuole soluzioni più flessibili, vuole stare in un co-working, e anche a livello di offerta di pausa pranzo i nostri format sono molto apprezzati, perché hanno un costo o occupano uno spazio molto piccolo e quindi rendono l'azienda molto flessibile. Quindi abbiamo visto oggi nelle aziende che i cui lavoratori sono ancora in azienda, il nostro servizio è molto apprezzato, anche perché permette in un momento come questo di magari non uscire e andare in un ristorante dove sono aperti, e quindi a livello di sicurezza permette al dipendente di rimanere in azienda e comunque consumare un pranzo sano e di qualità. Che idea vi siete fatti di come sarà il mondo del lavoro nei prossimi anni? Perché lavorando con tante aziende avete modo di confrontarvi, di studiare. Allora, lavorare nei prossimi decenni, proprio perché parlo quotidianamente con tantissime aziende, la direzione assolutamente è quella di smaterializzare una parte del posto di lavoro e anche dei servizi annessi. Cosa vuol dire? Io mi immagino che un'azienda di 200 dipendenti non avrà più bisogno di 200 desk, ma è quello che sta succedendo già adesso, ma avrà bisogno di uno spazio magari minore di 100 desk dove le persone possono alternarsi, e quindi sarà tutto molto più flessibile e fluido. Detto ciò, mi rendo conto come, parlando con alcune aziende, comunque rimane importante la sede di lavoro, anzi la sede diventa ancora più importante che abbia dei servizi che rendano piacevole lo stare in ufficio. Quindi io mi immagino un futuro dove lo smart working sarà presente, dove rappresenterà 2-3 giorni a settimana, questa è la media parlando con le varie aziende, ma dove rimarranno comunque quei 2 o 3 giorni in ufficio che servono alle persone per collaborare ad un'azienda, per creare una cultura che digitalmente è difficile creare. E non ultimo, secondo me c'è una differenziazione importante in base alla tipologia di azienda in quale Industries lavora, quindi ci saranno alcune tipologie di aziende in cui lo smart working è funzionale, mentre altre aziende dove lo smart working è complesso da mantenere in un formato come oggi, che ovviamente è forzato dalla pandemia. Senta, volevo chiederle una cosa. Questo è stato un anno difficilissimo per la ristorazione, inutile dire il dramma di tanti esercizi che continuano a restare chiusi. Vi siete mai sentiti in colpa perché voi continuavate a offrire i vostri servizi, appunto essendo un ristorante digitale? Allora sì, allora da un lato devo dire che non ci siamo sentiti troppo in colpa, perché anche noi abbiamo subito comunque il colpo, perché prima raccontavo che ovviamente il servizio era disponibile anche a casa, ma una persona a casa alla fine tende a aver preparato qualcosa prima, mangiare qualcosa al volo, quindi non siamo riusciti a convertire tutti i nostri clienti in clienti anche quando sono a casa, quindi abbiamo subito anche noi un bel colpo, oltre al fatto che abbiamo anche alcuni negozi fisici in alcune aziende che sono stati chiusi, quindi anche noi diciamo abbiamo subito il colpo del Covid. Quindi capisco assolutamente la difficoltà di questi ristoranti intorno, ma da un lato io sono certo che quando la situazione tornerà normale ci saranno sempre una percentuale di persone che avranno il piacere di uscire e consumare un pasto all'aria aperta o all'interno di un ristorante, mentre altre persone preferiranno usufruire del nostro servizio. Credo alla fine quello che è la qualità, l'innovazione del servizio è quello che deciderà quali aziende possono continueranno ad esistere o meno. Che poi si troverà una soluzione. Senta, un'ultima cosa. Se ci sta ascoltando un ragazzo che pensava di aprire un piccolo ristorante, un bar, una pizzeria al taglio, spesso si dice che uno dei problemi di questo settore è legato alla scarsa preparazione iniziale. Quindi lei che consigli gli darebbe? Allora, in maniera telegrafica, competenze. Quindi puoi benissimo pensare di aprire una pizzeria, ma devi avere un socio, un qualcuno che ha fatto già qualcosa nel mondo food, che nel mio caso è stato il mio socio Marco, che quindi ha permesso di sviluppare velocemente ed evitare determinati errori nello sviluppo dell'azienda. Quindi questo è il primo consiglio, senza competenze è difficile. E poi bisogna saper leggere i bilanci, capire un po' di matematica, cioè avere una nozione di commercio, no? Esatto. Io infatti ho studiato economia, non mi sono mai occupato di cibo, ma ho sempre lavorato appunto in grandi aziende seguendo la parte di marketing e finanza, quindi una base per saper leggere i numeri, perché questo è un vizio un po' del ristoratore medio, che è italiano, in cui i conti si fanno un po' così, e invece è fondamentale avere presenti tutti i costi e tutti quelli che sono appunto i margini e la lettura di un bilancio, come diceva. Allora, intanto vedremo dove andrà il lavoro del futuro e dove andremo tutti noi con le nostre schiscette, come si dice a Milano, da portare in ufficio. Grazie a Stefano Cavaleri, cofondatore di Furban, che ci ha dato appunto un'idea diversa col suo ristorante digitale. Buona domenica, buon caffè. Grazie, buona domenica. Persone, idee, lavoro, cultura, istruzione, gastronomia e caffè sono il motore dell'Italia. Per affrontare l'oggi e il domani in modo diverso, creando la nostra nuova normalità. Lavazza è vicina ai giovani delle università e agli operatori di spettacolo e cultura, ai baristi, ristoratori e albergatori che adattano il loro servizio al mondo che cambia. È nei co-working a creare relazioni, è di ispirazione ai talenti dell'alta gastronomia ed è al fianco dei coltivatori di caffè all'origine, dove la Fondazione Lavazza promuove i progetti di sostenibilità terra da cui nascono le miscele dedicate ai professionisti per offrire sempre nuove esperienze del caffè. Lavazza, il caffè ci unisce.